Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a Internet Festival. Mi sentite? Sì? Adesso mi sento anche io. Forse bisogna alzare un pochino, abbiamo una voce un po' bassa, ok? Perfetto, io mi chiamo Antonio Popolini e ho il compito di presentare il libro di Giovanni Bocciardieri e altri, che si intitola Fenomenologia dei social network. Giovanni mi conosce per il fatto di prendere sempre in giro le persone che fanno le presentazioni dei libri, c'è tutta una retorica della presentazione, e oggi temo che per me sarà la mattinata un po' del contrappasso, perché succederanno tutte le cose che io prendo in giro sempre, e cioè che il presentatore arriva con una pashmina e invece di far parlare l'autore del libro per un'ora parla di se stesso, come è successo a Mario Calabresi di recente, presentando il libro di Mantellini, che tipo, ho parlato per 12 secondi. Di solito chi presenta il libro ha una pashmina, una giacca di tweed con le toppe, e inizia a raccontare tutta una serie di episodi di infanzia della persona che ha scritto il libro, e quindi non si parla nel libro. Poi inizia tutto un panegirico emotivo, e a quel punto l'autore del libro comincia a schernirsi, lo guarda male, eccetera, dice ma no, ma su, ma giù, e poi quando arrivano gli ultimi 10 minuti, dovrebbe parlare lui del suo libro, si alza qualcuno e fa l'intervento travestito da domanda, no? Ecco, che è quello che ha intenzione di fare Claudia, esatto, che l'ha già preparato, che dura a sua volta 45 minuti. Ecco, in queste 6 ore di presentazione di stamattina, mattiamo per mangiare a pranzo, succederanno tutte queste cose, ok? No, cercheremo di evitarle. Proprio per evitare questo, io non farò tutta la mega introduzione, mi limito a dire insomma che Giovanni, ufficialmente professore di scienze della comunicazione presso l'Università degli Studi di Urbino, sociologo, saggista, docente, punto di riferimento, io credo davvero per tutti noi, per capire che sta succedendo in questa benedetta, maledetta transizione digitale, però è soprattutto per me la persona a cui fare le domande, e soprattutto la persona a cui chiedere quali sono le domande giuste da porsi, cioè quali sono le domande rilevanti, perché il problema non sono tanto le fake news, ma la fake relevance, ci occupiamo delle cose non rilevanti per noi in questo momento. E questo libro ha un grandissimo merito, perché è intanto il frutto di una ricerca scientifica, e vi assicuro non è banale. Sul web escono in questo momento su centinaia e centinaia di libri, di cui 2 o 3 hanno un fondamento e un rigore scientifico alle spalle, su 100. Tutti gli altri sono dei pamphlet, sono delle riflessioni di opinionisti, soprattutto di celebrità, no? Di celebrità che scrivono, tutti sentono l'esigenza di scrivere un libro sul web. Tutti sentono l'esigenza di scrivere il saggio pop, che poi è un alibi meraviglioso per scrivere qualcosa che non sta in piedi. E naturalmente ci sono cascato anche io in questo, pur non essendo una celebrità, quindi doppiamente sbagliato. E invece ecco, la cosa bella del libro di Giovanni è che affronta il tema del saper stare, del capire questi nuovi codici dei social network in modo scientifico, e tra l'altro rompendo questo racconto dominante di un mondo online completamente separato rispetto al mondo offline, e soprattutto fonte e causa di gran parte dei problemi della società, che insomma hanno cause un pochino più complesse rispetto alle velleità adolescenziali di Mark Zuckerberg, diventato poi un business multimiliardario. Allora, lo scopo di questa ricerca, su cui poi lui ha scritto questo libro insieme ad altre persone, di cui magari facciamo i nomi, no? Sono Laura Gemini, Francesca Pasquali, Simone Carlo, Manolo Farce, Marco Peroni. Credo che sia opportuno davvero, perché è un lavoro di gruppo di persone che hanno alle spalle a loro volta tutti gli strumenti per scrivere un libro del genere. Ecco, lo scopo era studiare Facebook per capire come cambia la società, però a prescindere dalle tecnologie, sfuggire quindi da questo riflesso tecnodeterminista che prende tutti, no? Noi diciamo automaticamente la colpa è del telefonino, la colpa, ci sono dei libri che si intitolano Metti via quel cellulare e sono i libri più venduti su questo tema. Poi ci sono i libri che dicono che è tutto causa dei big data, ci sono i libri che dicono che è tutto causa degli algoritmi, poi ci sono quelli che se la prendono con i media tradizionali come me, e sono tutti approcci sbagliati, perché non puoi dare sempre raccogliere prove a carico di un solo imputato per poi magari raccontare la tesi che ti fa comodo e che avevi in testa fin dall'inizio. Ecco, la cosa buona di questo libro, oltre insomma, alla profondità di pensiero che c'è dentro, è che non parte da una tesi, fa una ricerca seria, sono 120 interviste molto ponderate nella scelta del panel, c'è poi tutta la nota metodologica, insomma, per gli amanti del rigore scientifico, che tengono conto chiaramente tutte queste scelte delle variabili strutturali nell'uso delle piattaforme da parte degli utenti. Quindi si parte da dati empirici e poi però sono sistematizzati in un modulo che tu hai chiamato il modello interpretativo dello stare su Facebook, soprattutto, sì, si parla soprattutto di Facebook, ma è abbastanza fatale. Quindi io, appunto, per evitare di fare l'introduzione di 120 minuti, anche se mi ci stavo avvicinando, ti farei la prima domanda, e partendo proprio dai mass media tradizionali e le differenze con il nuovo mondo in cui ci troviamo oggi. Mentre i mass media fondavano la loro ragione di esistere attraverso questa capacità di aggregare, un'aggregazione forzata, perché quando c'era, che so, un film in televisione eravamo tutti nel salotto in religioso silenzio come il film, c'erano tanti vincoli, il controllo delle infrastrutture, palinsesti, modelli di business. Oggi chiaramente ci troviamo in un mondo diverso, che però non è la open internet di cui si favoleggiava 20 anni fa, i tuoi tre manifesto, Weinberg, Lessing e compagnie, Doc Searle, questi personaggi, non so se si sentono ancora, sì, ogni tanto si sentono ancora. No, non siamo finiti in quella open internet, siamo finiti in un nuovo, diciamo, mondo intermediato, con nuovi intermediatori, dove ai palinsesti si sono sostituiti gli algoritmi, che condizionano ancora una volta i contenuti di cui fruiamo. Ecco, però tu non lo definisci più un mezzo di comunicazione di massa, questo nuovo mondo in cui siamo finiti. Perché? Bene, grazie. È più acceso così, grazie. Va bene, intanto grazie Antonio per la presentazione delle parole. Adesso risponderò subito alla domanda, però faccio come tutti quelli che presentano i libri, quindi parlo prima di un'altra cosa per rispondere alla domanda. Aneddoto d'infanzia. Sì. No, più che altro sul libro. Il libro lo presento io qui oggi, gli autori sono invece sei, che sono sei ricercatori, ed è stato scritto con un metodo dove non c'è un'attribuzione singola delle parti scritte. Abbiamo usato un metodo che ho discusso tanto tempo fa, quando io ero studente a Bologna durante gli anni della Pantera, e ho conosciuto dei ragazzi che avevano cominciato a scrivere romanzi, si chiamano Vuming, non so se qualcuno li conosce, e che hanno un metodo di scrittura collettiva, funzionano come una band di scrittori. Quindi, come dire, parlando con Roberto in particolare, che siamo molto amici, abbiamo deciso di usare per la scrittura scientifica lo stesso tipo di metodo, quindi scrivere e riscrivere le parti. Immagino che uno scrittore esterno che conosca, come dire, chi ha scritto pensi che di riconoscere la scrittura, ma in realtà è stato riscritto da tutti collettivamente tantissime volte, smontando, buttando via pezzi, quelle cose irrispettose che i ricercatori di solito non fanno, ma che quando ci si mette assieme cercando di affrontare un tema si fa. Quindi per noi è stato anche un laboratorio questo tipo di metodo, e abbiamo scritto con le nostre parole, con le parole degli intervistati. Cioè è un libro che si fonda su una ricerca grounded, quindi 120 interviste in profondità anche davanti alle timeline di Facebook, a una serie di italiani che rappresentano in maniera campionaria gli italiani che stanno dentro Facebook. Quindi parliamo di Facebook, però in realtà, come diceva anche Antonio, parliamo dello stare sui social media, perché Facebook in qualche maniera credo che in Italia abbia rappresentato per molti un po' quello che è internet. Cioè io ricordo, lo raccontavo a lui durante una cena, un Natale del 2006-2007, a Media World una persona davanti a me che comprava il computer, gli chiedevo le caratteristiche e lui gli diceva: mi vanno bene tutti, basta che vadano su Facebook. Cioè, internet e Facebook per una parte della popolazione, potremmo dire i social media per una parte della popolazione, rappresentano la stessa cosa. Cioè, un'esperienza, io vivo una internet da prima, un internet dopo i social media, un po' come qualcuno di noi vive il bianco e nero in colore. I miei studenti universitari lo vivono come esperienza culturale, l'esperienza del bianco e nero e colore, non è una cosa che è nel loro DNA, nella loro vita. Quindi Facebook rappresenta questo ed è differente dai mass media. Io penso, sempre passato, i mass media un po' fondamentalmente come un campo di attrazione. Immaginate un pianeta dove le persone condividono lo stesso tipo di orbita attorno a un contenuto, non hanno un rapporto fra di loro, sono in orbita assieme. Internet invece funziona come la gravità, cioè ci attira tutti gli uni più vicini agli altri, nel bene e nel male. È per questo che vediamo cose bellissime late speech. Allora, la differenza fra orbitare e gravitare è una differenza fondamentale che crea, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista, una distinzione fra quello che i mass media sono e quello che è internet. Con tutte le interconnessioni del caso, perché non siamo così ingenui da immaginare un mondo separato, sappiamo che i media sono interconnessi fra di loro, esistono sistemi, come dire, che passano da un medium all'altro, abbiamo trasmissioni televisive costruite, come dire, su quello che avviene online. Pensate, una trasmissione tipo di questo tipo è propaganda live, per capirci. Così come ci sono, come dire, giornali che rilanciano cose che vengono messe su internet. La politica oggi, come dire, produce nella disintermediazione un rapporto diretto con le persone, per cui si può uscire da un consiglio dei ministri e non fare una dichiarazione ai giornalisti, ma fare un video per il proprio pubblico su Facebook e poi verrà ripreso nei TG serali, no? Quindi c'è un'interconnessione di tutti questi tipi di ambienti. C'è però una differenza sostanziale, che i pubblici, le persone che fruiscono dei contenuti su internet, si rendono visibili e si possono vedere fra di loro. Potenzialmente c'è questo tipo di possibilità, l'abbiamo imparato e sperimentato con la social television, no? Una dinamica molto semplice che possiamo come dire, studiare, analizzare tra i contenuti più pop, ovviamente, così come nella politica. Questa visibilità dell'essere pubblici in qualche maniera è diventata un elemento rilevante. Quello che diciamo nel libro è che forse è la prima volta che come umanità abbiamo una condizione particolare in cui contemporaneamente in un ambiente mediale siamo pubblico e abbiamo dei pubblici. Cioè, tutte le volte che voi siete su Facebook, immagino che molti di voi abbiano un contenuto su Facebook, cioè abbiano un Facebook che producono contenuti, dovete decidere se siete parte di un pubblico che legge quei contenuti, eccetera, o se producete dei contenuti per un pubblico, o se condividendo un contenuto di qualcuno, essendo suo pubblico, producete dei pubblici per voi stessi. Noi siamo sempre stati abituati, come dire, ad avere una distinzione molto chiara fra, come dire, certe forme dei mediali ed altre. I media di massa funzionano banalmente da uno a molti, hanno un loro pubblico, c'è scarsa bidirezionalità, ci sono dei tentativi fatti dalle telefonate con i fagioli della Carrà da casa a forme più evolute fondamentalmente, però il controllo avviene del canale e quindi anche del contenuto che viene veicolato dal canale avviene sempre dall'alto verso il basso. Le forme legate invece a internet e social media permettono un tipo di dimensionalità diversa. Prima, se avevamo i rapporti interpersonali o di piccolo gruppo, avvenivano in certe, come dire, condizioni spazio-temporali, ci dobbiamo vedere di persona, ci possiamo mandare una lettera, posso scrivere un diario. L'idea è: cosa cambia nel momento in cui, molto banalmente, i nostri diari quotidiani sono in pubblico? Nel momento in cui ci confrontiamo con gli altri in quanto pubblici. Ecco, questo duplice modo di stare nei media oggi, di avere ed essere pubblico contemporaneamente, è quello che ci interessava ed è quello che distingue nella disintermediazione, secondo noi, principalmente il lavoro dei mass media da quello legato ai social media. Alla fine hai risposto alla domanda, però sì, abbiamo saltato un po' di passaggio, ti ringrazio. Mi sentite? Sì. Allora, questo libro sfata tutta una serie di miti. Secondo me, una delle vittime più illustri è la filter bubble, che è una delle parole d'ordine, una delle buzzword, possiamo dire, degli ultimi anni. devo dire, un bellissimo libro, no? Di Ali Parisier, che parla di come i social media tendono a creare per ciascuno di noi delle bolle dove ci rifugiamo, dove incontriamo persone che hanno i nostri stessi interessi, che la pensano come noi, e quindi invece di essere aperti al confronto sui social media in questa visione, in realtà ci rinchiudiamo in piccoli mondi, eccetera. Ecco, quando uscì questo libro, che peraltro, ripeto, è una pietra miliare di tutto il discorso che stiamo facendo, però la mia reazione fu abbastanza di sorpresa. Perché dobbiamo preoccuparci dell'esistenza di tante piccole filter bubble per ciascuna di noi, e nessuno invece si è preoccupato per 30 anni dell'unica grande filter bubble aggregativa rappresentata dai media tradizionali? Quando parlavi della gravità rispetto all'orbita, no? Del pianeta, dove c'è una forza gravitazionale che era prima, ecco, quella, la forza gravitazionale verso il pianeta era evidentemente nel discorso collettivo, nel discorso dominante, percepita come salvifica, in grado di proteggerci forse da noi stessi, dalle nostre peggiori pulsioni. E invece la filter bubble individuale, che, perdonatemi, per quanto mi riguarda è una espressione, una, della libertà di espressione, scusate il gioco di parole, è della libertà individuale, e invece viene vista negativamente. Ecco, tu nel libro, con una frase secondo me abbastanza forte, però per quanto mi riguarda ampiamente condivisibile, cosa dici della, della filter bubble, del rischio delle omofilie, no? Che le omofilie sono in larga misura sopravvalutate, perché sono, in realtà si rivelano, questa ricerca rivela che sono solo delle variabili sociali del nuovo equilibrio tra algoritmo e quelle che poi però alla fine sono le nostre scelte. Quindi la tendenza verso l'aggregazione tutti insieme intorno a un singolo contenuto è più forte, quando c'è per esempio un grosso fatto d'attualità, per esempio gli attentati dell'ISIS a Parigi, no? In quel momento tutti parliamo di questa cosa anche in un ambiente diversificato come Facebook. Perché? Perché siamo aggregati però da qualcosa che succede nel mondo, non dalla nostra ricerca di conferme. Come sei arrivato a questo passaggio? Allora, diciamo che il libro tende a farsi delle domande facendole alle persone. Cioè, a noi interessava capire qual è il senso che le persone hanno dello stare su Facebook, dello stare all'interno dei social media, dell'utilizzare WhatsApp tutti i giorni, cioè perché fondamentalmente. E perché sia così presente nelle nostre vite, come dire, la mediazione della comunicazione. Questo, come dire, è abbastanza evidente, no? Per quanto riguarda la capacità, la possibilità di stare in connessione con gli altri. Anche qui l'idea non è tanto di... Cioè, secondo me la vera dimensione critica che possiamo utilizzare quando ragioniamo su internet e social media è quello, appunto, non di lodare o demonizzare, ma di utilizzare gli strumenti e capire più in profondità le conseguenze. Quindi anche qui la filter bubble non è che vada smontata, va capita più in profondità, secondo me. Cioè, è evidente che tutti noi filtriamo la realtà in qualche modo attraverso le scelte che facciamo. Se guardiamo la televisione, scegliete in che canale guardare un TG, per esempio. Quello produce una filter bubble. Quando andate la mattina a comprare i giornali, posto che ci siano ancora dei giornali in edicolo, che ci siano ancora delle edicole nel mondo, perché, come dire, il numero dei lettori cala, insomma, anche questa è una dimensione su cui bisogna riflettere, fate delle scelte. Cioè, inutile che, se siete acquirenti di Repubblica, io vi dica, però se non vi confrontate col Libero siete in una filter bubble, perché probabilmente voi il Libero non lo leggerete perché siete, come dire, il popolo di Repubblica. Questo vuol dire che non siete esposti ad altro. Perché il problema che noi abbiamo quando riflettiamo su questo tipo di tematiche è considerare delle diete monomediali, cioè come se tutti noi vivessimo solamente su Facebook, o avessimo le informazioni della politica solamente da Repubblica, solamente da Libero, solamente da TG1, solamente dalla 7. In realtà, sapete quante sono le percentuali, qual è la percentuale di persone che hanno una dieta monomediale in Italia, che equivale più o meno a quella europea? L'8%. L'8% della popolazione, per l'8% può valere questo tipo di discorso. Tutti gli altri hanno da due più strumenti di comunicazione, senza considerare che incontriamo le persone. Io posso discutere con Antonio Pavolini di politica, o con Claudia Vago, o con le altre persone che incontro al festival, o che voi potete incontrare idee con cui non siete d'accordo anche venendo alla rappresentazione di un libro o cose di questo genere. Cioè, ci incontriamo continuamente. della, come dire, delle differenze rispetto al nostro modo di pensare. È evidente che in alcuni tipi di luoghi, nel momento in cui noi abbiamo dei filtri molto forti e pensiamo a come funzionano fondamentalmente gli algoritmi, ma anche le app fondamentalmente all'interno dei, della, della realtà di internet e dei social media, creiamo, come dire, un mondo filtrato rispetto alla complessità. Cioè, voi sapete che rispetto al numero medio di amici che avete su Facebook vedete solamente un numero fra il 3 e il 4% dei contenuti che vengono pubblicati dalle persone. Chi decide cosa vedete? Un algoritmo, perché esporvi a tutto sarebbe A, troppo complesso, B, molto noioso. Quindi Facebook produce fondamentalmente un algoritmo che cerca di portarti quello che ti può essere più di interesse per te a partire dalle tracce che tu lasci, persone con cui interagisci, persone che commenti, argomenti che tratti di più, e bilanciando fondamentalmente in un algoritmo che cambia nel tempo, perché anche questa è la cosa interessante, ti espone a certi tipi di conversazioni piuttosto che altre. Questo non vuol dire che poi tu, rispetto all'algoritmo, non decida di andare a spiare la vita di un altro scegliendo il suo nome e cognome e ti esponi, come dire, a una mutazione. Cioè, gli algoritmi sono il frutto della nostra incapacità a selezionare rispetto alla mole di informazioni, ma anche, come dire, essere assoggettati a un algoritmo dipende dal fatto che non abbiamo un'abitudine alimentare all'informazione che ci porta ad assaggiare anche cose diverse. Nessuno di voi mangerebbe tutti i giorni da McDonald's, perché sapete che la dieta va variegata, che siete dei fan dei panini di McDonald's. Su Facebook invece siamo su McDonald's tutti i giorni perché magari ci fa fatica andare a cercare anche della verdura o altri tipi di cose. Se facciamo quel tipo di sforzo, cioè se semplicemente andiamo a cercare tutti i giorni tre contenuti diversi che non ci vengono segnalati da Facebook, andando sulle timeline delle persone, modifichiamo l'algoritmo. L'altra cosa è la filter bubble. La filter bubble non è una volta per sempre, parliamo dell'algoritmo di Facebook. Facebook cambia l'algoritmo costantemente. Google cambia l'algoritmo 23-24 volte al giorno per impedire che i brand trovino dei trucchi per essere posizionati, come dire, sempre più visibili. Cioè, quindi è una realtà. A volte lo cambiano anche solo per esigenze di reputazione, come dicevamo prima, quando come Facebook ha avuto il problema circa un anno e mezzo fa, no? Di essere al centro dell'attenzione per l'esito di alcune importanti consultazioni elettorali, improvvisamente cambiò l'algoritmo e disse: ma ci saranno un po' meno media e un po' più vostre storie personali, no? Come per dire, noi non siamo più un editore, noi mettiamo in connessione le persone. Erano diventati tutti improvvisamente molto bravi. L'effetto è stato che le persone si trovavano la mattina aprendo Facebook non più le informazioni prodotte dal lercio, ma i post della zia. Cioè, questo è l'effetto. Cioè, il lercio Repubblica, il Fatto Quotidiano, cioè ognuno, come dire, poi legge quello che vuole in questo, come dire, eccesso di mondo. Cioè, tutte le zone di informazione erano più basse rispetto a quelle delle parentele. Poi l'equilibrio, come dire, si riassesta, perché tu magari non metti like al post della zia, cerchi di ignorarlo il più possibile e l'algoritmo comunque lo affonda in qualche modo. Devi spostare la macchina, Giovanni. Sì. Sono le macchine sono sempre più potenti. Quindi chiudo sui filtri, cioè sulla bolla dei filtri. Cioè, è evidente che viviamo in realtà filtrate, che sono dentro di noi, sono filtrate dentro di noi. Non so, immagino che qualcuno di voi segua il calcio. Allora, ci sono delle persone che sono fan di alcune squadre di calcio e vi trovate a pensare il mondo in certi momenti della vostra vita, la domenica, il mercoledì, a seconda che sia la coppa, ecco, in polarizzazione rispetto ad altri tipi di squadre. Producete hate speech, esplicito o dentro di voi. Alcuni di voi sono sicuro che anche nei vecchi media interagiscono con i vecchi media, cioè bestemmino di fronte alla TV anche se nessuno li sente, no? Maledicono l'arbitro, no? O utilizzino gesti antropopaici di diversa natura. Adesso la TV ti ascolta. Cioè, questa è la cosa, cioè il, come dire, essere, produrre delle bolle è un modo di avere dei filtri, è un modo di difenderci da una realtà che è troppo complessa rispetto a quello che noi siamo, ed è anche un prodotto evolutivo. Ne avevamo di diversi tipi primi. Essere comunista o democristiano era una filter bubble, cioè produceva una filter bubble, cioè ti diceva come pensare il mondo. Nel momento in cui, come dire, cadono alcuni tipi di filtri, se ne producono altri. Qual è il problema? Il problema è un problema di consapevolezza, di come agiscono e soprattutto oggi di chi gestisce questi filtri a quali tipi di fini, evidentemente, no? Cioè, quindi la filter bubble non è male in sé o bene in sé, va capita, smontata e definita perché è la risposta a un bisogno che noi abbiamo. Tu non potrai mai dire alle persone devi essere esposto a più informazione, a diversificazione dell'informazione, perché ognuno va a prendere il caffè nel bar dove vuole andare, parla di ciò che vuole parlare, ha piacere di stare con certe persone e gli stanno sulle palle delle altre persone, non c'è niente da fare. Quella è una filter bubble, no? È evidente, no? Per cui anche, come dire, l'idea di questa internet ecumenica dove io per forza devo leggere cose che non... che sono molto lontane da me, non è detto che sia la soluzione migliore. Non è salvifica nemmeno quella, no. Cioè, avere un per ogni post che leggo, devo avere anche un post mia madre che dice una cosa diversa. Anche mia madre che parla da McDonald's tutti i giorni. Cioè, quindi dobbiamo ragionare attorno a questi termini. È stato molto importante il lavoro fatto all'inizio anche da Paris e altri per introdurre dei concetti e dire dove puntare il dito. A questo punto bisogna che, appunto, smettiamo di guardare il dito, cominciamo a guardare la luna e cioè vediamo qual è il problema della successione. Allora, anche per vivacizzare un po' la presentazione, Giovanni ha portato alcune prove empiriche che chiameremo prova numero uno, prova numero due, come dire, processi, che testimoniano lo stare su Facebook. Io vorrei cominciare a vedere se c'hai qualche prova con te di questa cosa che ricorre spesso nel libro, cioè l'atteggiamento manageriale della narrazione del sé. Adesso io non mi metto a leggere le risposte, che naturalmente sul libro sono tutte anonimizzate, c'è solo qualche dato demografico, e così come penso che anche questi screenshot saranno anonimizzati, però sono delle, iniziano ad essere delle prove di come abbiamo cominciato a provare ad essere neoliberali, usi anche spesso questo atteggiamento e magari prima ci fai vedere qualche caso e poi ce lo spieghi, ci spieghi anche cosa intendi per neoliberale. Sì, adesso vado in... uso sì questa slide di base giusto per capire il lavoro scientifico, appunto l'approccio grounded, quindi cerca di partire dalle condizioni, come dire, che esistono al di fuori di internet nelle persone. E oggi noi abbiamo un orientamento neoliberale della rete che non dipende, cioè che dipende da condizioni molto più complesse dal semplice fatto che esiste internet o esiste il web. Qual è l'orientamento a un sé neoliberale? Fondamentalmente che per come sono fatte, in particolare i social media, o in generale per come è fatta internet, però prendiamo i social media che secondo me sono molto più importanti. Noi abbiamo due fattori esterni che in qualche maniera agiscono su di noi. Uno è quello che noi chiamiamo l'ingiunzione alla connessione, cioè tutto funziona se tu sei spinto a essere connessi con gli altri, il che vuol dire molto banalmente che tendiamo a, cioè quanti di voi cancellano i nomi dalle rubriche? Cioè tendenzialmente, siccome non è un costo mantenerli, li aggiungi, se conosci una persona ti fai dare il numero di telefono, sai che le persone, tranne qualche stalker, insomma, non ti tormenteranno, no? Però lo tieni lì, è una possibilità da attivare se ti serve, no? Però non c'è bisogno di tenere in ordine, cioè accumuli, perché l'importante è mantenere questa disponibilità alla connessione. Lo stesso motivo per cui molti di noi non spengono il cellulare durante la notte, vi deve chiamare qualcuno, probabilmente no. Però, come dire, c'è questa disponibilità all'essere connessi, che è l'attivazione di servizi che dicono in questo momento non sono raggiungibile, richiamami oppure ti richiamerò, o cose di questo genere, no? Cioè tutto funziona se vieni stimolato alla connessione. Le notifiche sono uno di questi strumenti, semplicemente sono lì a ricordarti che internet c'è anche se tu non ci sei sopra in quel momento. E internet non è quell'immagine che avevamo negli anni 70 di una roba che accendevi con il router che faceva un rumore per minuti, e, o pagine web anni 90 che si aprivano mentre tu leggevi un romanzo o cose di questo genere. Internet, lo dico sempre, è quella roba che ti vibra in tasca quando arriva una notifica. Cioè voi siete qui e contemporaneamente siete da un'altra parte perché tirate fuori, guardate, scrivete un messaggio, prenotate per il pranzo, vi dite dove vedete, cose di questo genere. In questo meccanismo c'è un orientamento che è una condizione interveniente, appunto a un senso liberale, che è dato dal fatto che fondamentalmente il neoliberismo, che io non utilizzo e noi non utilizziamo dal punto di vista economicistica, lo utilizziamo dal punto di vista culturale, cioè il neoliberismo, cioè il capitale, ha cominciato ad occupare delle zone che non hanno a che fare semplicemente con la dimensione economica, la produzione e la vendita di merci, ma colonizzano altri ambiti che sono quelli, per esempio, delle relazioni sociali e degli affetti. Cosa vuol dire che colonizzano degli ambiti che sono quelli delle relazioni sociali e degli affetti? Che fondamentalmente alcune logiche, come la logica del conteggio su Facebook, avere più amici o meno amici, la logica, come dire, del successo di un post, avere più like, meno like, certe reazioni, commenti, eccetera, fondamentalmente ti spinge verso questo tipo di dimensione. Io qui lo dico in maniera neutra, eh? Cioè dico semplicemente che tecnicamente funziona così. Cioè, ecco, per esempio Baricco l'altro giorno qui, quando ha parlato all'Internet Festival, non lo ha detto in maniera neutra, cioè dice che questa gamification, il fatto che ci sia un punteggio in tutto quello che facciamo, è esattamente ciò che ci impedisce di andare in profondità. Cioè, la cosa vera è che tu in qualche maniera nel mondo ti devi presentare. Voi qua siete venuti non nudi oggi, ma vestiti, avete scelto come vestirvi, come dire, avete fatto delle scelte per presentarvi, vi gestite in maniera più o meno consapevole, e la stessa cosa facciamo in rete. Cioè, la rete, per come è fatta, i social media, per le loro afforda, cioè per le possibilità che ti concedono tecnicamente le piattaforme, ti spingono verso un certo tipo di direzione, cioè a gestirti dal punto di vista manageriale. Cosa vuol dire fare management del sé? Significa gestire il proprio successo online, o la propria conoscenza, i propri rapporti, l'estensione della rete. Prendete una roba senza obiettivi, non prendete Claudia Ferrari, cioè non prendete chi fa un mestiere di questa cosa, prendete un adolescente di 13 anni su Instagram, usa delle tecniche per aumentare la propria cerchia sociale, ad esempio il follow for follow. Se usate l'hashtag F4F vuol dire: se tu mi segui, io ti prometto che ti riseguo. A cosa servirà questa cosa? Non lo sappiamo, ma in una dimensione neoliberale avere più relazioni sociali significa poter, come dire, sfruttare bene il proprio capitale sociale, cioè creare dei rapporti con gli altri e poter avere qualcosa in cambio se serve, anche attraverso un'etica dello scambio, no? Cioè anche il peer-to-peer funziona in questa maniera, cioè se non c'è nessuno che mette i film gratuiti che gli altri si possono scaricare, tutto salta per aria, no? Però il modello è neoliberale in qualche maniera. Sì, tra l'altro è molto più onesto, perché si basa sempre su una scelta, il follow, mentre per esempio ci sono aziende che creano vetti su Twitter, finti account, tutto questo per moltiplicare l'esposizione del brand, no? E invece tra persone, quello che noi magari critichiamo, cioè il fatto che ci cominciamo a comportarci come se fossimo un'azienda, come se avessimo un capitale, in realtà però è molto più onesto intellettualmente. È una forma, allora, anche qui, io non dico se il fatto che tutto stia diventando neoliberista sia una cosa brutta o una cosa bella, non è quello come sociologo che mi interessa, no? Perché sono valutativo. Dico che però questa è una dinamica di funzionamento, e se non teniamo conto di questa dinamica di funzionamento, dei meccanismi non li possiamo capire. Cosa succede con appunto gli adolescenti, il tredicenne che, o la tredicenne che sta nei social media, poi in alcuni social media, no? Perché stanno su Instagram, su Facebook non ci stanno, ci staranno quando entreranno nel mondo lavorativo, non lo so. Cioè, però al momento stiamo vivendo anche una cosa che diamo per scontata, cioè che tutti stiano su Facebook, quando in realtà c'è una parte di mondo, quella degli adolescenti, che non c'è. Detto questo, che cosa succede qui sopra? Noi abbiamo parlato di un sacco di psicologi dell'età evolutiva e di cognitivisti. Cioè, fondamentalmente i social network funzionano con un principio che è quello del rispecchiamento. Quando tu hai 12-13 anni hai un problema di guardarti con gli occhi degli altri, cioè cominci avere il bisogno di misurarti col tuo gruppo di pari, ed è per quello che passiamo del tempo davanti allo specchio a guardare come siamo truccate, truccati, pettinati, vestiti. Lo specchio ci restituisce un'immagine che è la nostra rovesciata, quindi cerchiamo di vederci con una specie di sguardo alieno. Cosa fanno questi strumenti? Rispecchiano. Cioè, tutte le volte che tu ti posti dicendo: ho comprato le mie scarpe, le mie Converse nuove, c'è qualcuno che ti fa dei like, c'è qualcuno che ti fa dei commenti, c'è qualcuno che ti dice: wow, sei fighissima, sei bellissimo. Cioè, giochi, come dire, a un gioco che è quello della validazione sociale. Prima la validazione sociale ce l'avevamo solo in certi tipi di contesti, sulla TV non potevamo avercela perché non è bidirezionale, qui abbiamo la validazione sociale di altro tipo, ed è un meccanismo naturale. Fondamentalmente che cosa facciamo quotidianamente online? Facciamo delle attività performative, che sono delle performance di gusto. Cioè, ci raccontiamo in termini di gusto. Cioè, io sono, nei miei post, quello che leggo, i festival in cui vado, le cose che mangio, gli amici che ho. Cioè, pensate anche al numero di selfie che ci sono nel mondo, che sono considerate prima il male dai giornali e dagli intellettuali, finché gli intellettuali hanno cominciato a farsi sul palco di Sanremo, no? La maggior parte dei selfie nel mondo non sono selfie di persone singole, perché l'idea è che io non sono sfigato da solo, ma il selfie è quella cosa che mi mostra che io sono con degli altri, quello è il mio gruppo di amici, e questo regge, io sono queste relazioni qua. Allora, questo tipo di esibizione è uno strumento molto forte, quindi il neoliberismo e la performance del gusto vanno insieme. Il neoliberismo, come dire, ti permette di misurare in qualche maniera chi tu sei, raccontandoti al meglio di te stesso, lì sopra. E questa è la dinamica di funzionamento. I social media e internet sono un grande specchio riflessivo. C'è una dimensione molto forte riflessiva, ma uno dice, ma anche quando produci discorsi d'odio? Beh, considerate che per gli adolescenti c'è stato un periodo in cui l'hate speech era una retorica, era un modo di stare nelle conversazioni, rappresentava qualcosa che andava, qualcosa che va. Come oggi è il come dramma. La politica. Come oggi è anche il dramma, no? Il fatto di stupirsi o comunque dare importanza a piccoli fatti della nostra vita quotidiana. Quella cosa lì, la retorica di Greta Menchi, cioè di dare grande spazio alla vita quotidiana e diventare una famosa youtuber, significa mettere il riflettore su una roba banale che però tutti possiamo condividere e parlarne, esattamente come fa con altri linguaggi e altri mezzi la politica. Oggi un discorso che polarizza è un discorso che produce capitale, fondamentalmente, cioè è una forma neoliberale della politica. Su cui si appoggiano le piattaforme perché hanno capito che in questo modo l'engagement sale, si liberano più dati e gli inserzionisti sono più contenti. Questo anche per dare una, diciamo, l'altra faccia. Hai qualche altra slide? Sì, ho qualche altra slide molto veloce e che cerca di spiegare la quale scienza. Ah, ecco, la quale scienza, che non è, come io ho temuto mentre leggevo il libro, un refuso, pensavo che fosse convalescenza, poi ho visto che ricorreva spesso e mi sono rassegnato l'idea di cercare di capire che cosa tu intendessi. Alla fine spero di aver capito, direi soprattutto il superamento di tante dicotomie offline, online, pubblico, dimensione pubblica, dimensione privata, mondi vicini, mondi lontani, che ricorrono sempre, no? Mondo reale, mondo virtuale, è drammatico come continua a ricorrere in tutto il discorso su internet, questa dicotomia tra reale e virtuale. L'ho sentita anche da Baricco, devo dire, lo spettacolo di Baricco mi è piaciuto tantissimo, però torna questa divisione drammatica del tipo, se continuiamo a stare nel mondo virtuale non vivremo mai il mondo reale, e invece no, e invece c'è la coalescenza. Che cos'è, Giovanni? La coalescenza è un concetto preso dalla filosofia, quindi Bergson, Marson, Deleuze, non importa. Fondamentalmente noi la spieghiamo con questo tipo di immagine, che è un'immagine di Escher. Per vedere questa immagine, il nostro cervello funziona così. Prima voi vedete o le anatre bianche in volo o quelle blu in volo. Se cominciate a guardare bene vedete che i contorni dell'una producono i contorni dell'altra. Se non ci fossero i contorni dell'una, l'altra non ci sarebbe, fondamentalmente. La coalescenza vuol dire che probabilmente dobbiamo imparare a ragionare sui concetti che riguardano la nostra vita e la rete, non in termini dicotomici, di opposizioni, ma considerando come gli opposti in realtà siano due componenti della stessa forma. Immaginate una moneta a due facce, il valore è dato dal fatto che abbia le due facce, poi voi potete guardarne una o l'altra. Allora, una delle prime dicotomie, che è quella online-offline, questa distanza fra quello che c'è dentro la rete e fuori la rete, noi la raccontiamo con questa frase presa da A, 32 anni di Milano, maschio, che dice, in un'intervista si dice, io ho formulato la teoria dell'offline, nel senso che non riesco a fare la differenza tra quello che è online e offline, nel senso che se noi ci aggiorniamo su Facebook è normale, se io ti scrivo su WhatsApp invece che su SMS è normale, ma è normale per tutti, non c'è più differenza. Come pubblicare la foto quando sei ancora nel locale? Non è una foto ricordo, è una foto perché sei lì. Cioè, molto spesso noi ci dobbiamo chiedere, poi possiamo avere tutti i pregiudizi che ci pare, dire tutto finito, non esiste più niente, l'autenticità e tutte le stronzate che vi pare, però fondamentalmente fare questa roba è parte oggi dell'esperienza. Cioè, fare una foto, uno si chiede, ma perché ti fai una foto nel locale? Una foto ricordo? No, è una foto perché sei lì. Mette, come dire, una pietra miliare nei tuoi social network. Ti racconta, allora ti racconta gli altri ti commentano, quelli che non sono lì. Fa parte dell'esperienza. Allora, è evidente che i problemi dipendono da questa connessione fra online e offline. Cioè il vero problema non è che sono il mondo virtuale diverso da quello reale, è che la nostra realtà impatta lì dentro, cioè che le persone che conosci su Facebook sono le persone che incontri tutti i giorni, se no, come dico sempre, non parleremo di cyberbullismo. Cioè cyberbullismo è il fatto che qualcuno che è in classe con te ti tormenta lì sopra, che ti espone, prende una tua foto e ti sputtana lì sopra, prende una cosa che hai scritto su WhatsApp e la porta dentro un altro contesto come quello, non so, di Instagram e ti sputtana anche il tuo gruppo di pari. Cioè questo è il tipo di problema. E quindi la coalescenza fra online e offline significa tenere conto di questo fatto che le due realtà sono la stessa realtà perché sono inestricabilmente connesse fra di loro. Questa è la coalescenza fra mondo vicino e mondo lontano, che gioca sul concetto di visibilità e prossimità. L'immagine a destra la conoscete di più di quella a sinistra. L'immagine a destra è Chiara Ferragni che ci racconta il, come dire, la sua quotidianità di essere madre, che è un modo per lei anche di fare business, perché come dire, la sua visibilità e il suo racconto quotidiano sono il modo attraverso cui lei fa impression e attraverso cui può in qualche maniera aumentare il tipo di budget che richiede per promuovere poi prodotti lì all'interno. Non so se lo farà con il bambino, però il mondo del bambino è straordinario perché c'hai pannolini, biberon, latte in polvere, robe per lavarli, accessori, cioè di tutto, cioè quindi è una grandissima occasione anche di business. Però prendiamola così, che fondamentalmente un racconto di questo tipo. Ecco, quella di là è già più diversa, è un'immagine su Instagram di un gruppo di adolescenti che hanno degli hashtag sotto, ecco, quella roba lì ha senso per loro, cioè il mondo vicino e il mondo lontano è il collasso fondamentalmente fra due realtà che non possono essere più così tenute a distanza. Cioè, mi viene in mente un esempio molto banale, mi scuserà Claudia che è qui presente, se la prendo come esempio. Ieri, durante un aperitivo, Claudia si presenta con un signore, che un signore alto, bel signore, con la camicia bianca, insomma, un signore a posto, distinto. Si vedeva che era una brava persona, distinta, che si presenta, ciao, piacere Gianluigi, e lei dice ciao, piacere Claudia, cioè l'anonimo in un tavolino dove gli altri si conoscono, finché qualcuno di cui gli dico, ma lui cioè, sai chi è lui? Sì, Gianluigi si è presentato adesso, questo signore con, ma veramente si chiama insopportabile online. Ecco, allora lì è scattato l'abbraccio, il saluto, dice ma noi ci conosciamo da un sacco, ecco. Per Claudia, così come per me, molte delle persone che oggi sono qui, prima erano delle persone con cui avevo avuto fitti rapporti online, di cui avevamo parlato di cose, ma non avevamo mai visto di persona. Fa molto Portobello, Enzo Tortora, questa cosa che hai raccontato. Però funziona così, cioè il tuo mondo vicino e il tuo mondo lontano sono collassati. Tu puoi avere delle amiche che vanno a fare il periodo di Erasmus all'estero e il fatto che postino la loro banalità, il fatto che pigliano il caffè la mattina, dove vanno, il tram, eccetera, è un modo di stare in contatto, molto banalmente. Chiudo con la coalescenza con l'ultimo elemento, che è quello pubblico-privato, ma ne avevamo già parlato prima, cioè fondamentalmente cosa vuol dire essere in pubblico e essere in privato oggi? Tu hai bisogno di continuamente di ridefinirlo. Ci sono delle forme di privato in pubblico, per esempio, che mettiamo. Una delle nostre intervistate, per esempio, ci ha raccontato questa storia. Poi c'è un'intervista, ci ha raccontato questa storia, la storia di una mug, una di quelle tazze in cui metti il caffè caldo. Una sua amica gli regala questa tazza che quando si scalda fa venire fuori un'immagine che è quella, vi ricordate quel videogioco con i fantasmini? Si chiamava? Pac-Man. Vedo generazionalmente pronte. Quindi è una tazza bianca, quando entra dentro il liquido caldo vengono fuori tutte le figure dei fantasmini di Pac-Man. Semplicemente lei un giorno la posta su Facebook senza dire niente, i commenti sono ah bella, quanto costa, dove l'hai comprata, eccetera, e la sua amica mette solo un like. L'intervistata dice io l'ho messa per lei perché lei sapeva che se io la mettevo le stavo dicendo ti sto pensando, penso a questa cosa, e l'ho messa per te, la metto in pubblico, ma in qualche maniera è nascosta, cioè il senso di quella cosa è nascosta agli altri, è una forma di privato in pubblico. Un'altra intervistata invece un po' più grande ha un rapporto, è un amante di una persona, no? Quindi sono una coppia clandestina e si sono conosciuti in un bar. Tutte le volte che lui o lei passano da lì utilizzano una delle app per la geolocalizzazione e mettono fondamentalmente un check-in. Lui e lei sanno perché, cioè quella cosa è fatta per loro, non è semplicemente prendere punti per avere un caffè gratis, è chiaro? Allora, nel bene e nel male, nella legalità e nell'illegalità, questa cosa che i mondi come dire, pubblici e privati tendano a convergere è molto potente. Allora, ragionare in questi termini ci obbliga continuamente a chiederci: ma quello lì non lo sa quando dice quelle cose in pubblico che è in pubblico, perché dice delle cose private, perché ci esponiamo così tanto, in che modo? Allora, è complesso questo tipo di realtà da affrontare. Va bene, siccome ci stiamo avvicinando verso la fine, abbiamo più di un'ora di tempo e vorremmo anche lasciare qualche tempo per l'intervento travestito da domanda di Claudia, ti lascio un'ultima suggestione. In un recente articolo, non so se per La Stampa, adesso non ricordo, forse L'Espresso, hai scritto che sui social i ragazzi in realtà stanno scrivendo il loro romanzo di formazione, mentre in realtà gli adulti, la sensazione è che tendano a non creare molto di nuovo sui social network, anzi riciclano i temi imposti dall'agenda dei media, sempre sono lì a spesso a litigare sulla politica, sull'ultima sparata di Salvini, eccetera. Ora, pensi che qualcosa possa succedere, che qualcuno riesca a trovare una chiave per cambiare le cose nell'immediato, oppure bisogna proprio aspettare la chiusura del gap generazionale? Cioè, dice il meteorite sui dinosauri, una roba del genere. Non sarei così catastrofista, però è evidente che, non lo so, poi ognuno ha la internet che si merita, non so, mi viene da dire così. Cioè, il racconto pubblico di quello che avviene su internet è molto diverso magari anche dalle esperienze personali che possiamo avere. Io ho incontrato persone bellissime, ho avuto la possibilità di fare cose, di creare rapporti, proprio anche, non so, di trovare, ho visto persone che sono fatte finanziare dei progetti e mille altre cose. Poi ho visto hate speech, poi ho visto prendersi, come dire, la gogna pubblica, ho visto i contrasti, cioè è un mondo molto complesso. È evidente che quando dico che i giovani costruiscono di sopra il loro romanzo di formazione, perché è una scrittura pubblica che tu fai sperimentandoti per il gruppo di pari, dove per scrittura pubblica va bene anche tutte immagini su Instagram, fondamentalmente. E poi il chiederci perché mettono quei contenuti lì è molto un problema anche della generazione precedente. Cioè, dico sempre che quando vado nelle scuole che immagino che molte delle immagini che gli adolescenti postano su Instagram non sarebbero interpretate correttamente dalle loro nonne e forse neanche dai loro genitori. Però è lo sguardo degli adulti. Certo, dobbiamo imparargli anche che ci sono degli adulti che li guardano lì sopra, qual è lo sguardo che abbiamo lì sopra. Però le storie, come dire, che loro producono sono anche molto diverse. Non è un caso che siano usciti da Facebook. Questo vale un po' per tutto il mondo, ma anche in Italia. Cioè, una Facebook in cui, come dire, gli argomenti sono molto polarizzati, i temi sono quelli dell'immigrazione, della politica. Magari per un adolescente che vuole parlare dei fatti suoi non sono così interessanti. E ricordiamoci che comunque anche gli adulti stanno cominciando a uscire, a prendersi dagli stop dei social network. C'è l'ultima ricerca più internet che mostra come in America ci sia una percentuale abbastanza rilevante di persone che o hanno chiuso l'account su Facebook o hanno deciso di prendersi una pausa. Il problema non è Facebook, ovviamente, se quella è una piattaforma, siamo noi, sono i contenuti che ci vedono, sono il tempo che noi ci perdiamo. Quando ti dici sto troppo tempo su Facebook, ho capito, cioè il problema non è Facebook, è che tu rispondi alle notifiche, ti metti in conversazioni con persone con cui litigare o cose di questo genere. Quindi non lo so, è evidente che le differenze generazionali contano, cioè non è tutto uno stesso calderone, cioè la generazione Z non solo perché è nata con le tecnologie, ma perché non ha un ricordo di un mondo, come dire, dove a un certo punto è arrivato internet e social media, perché è questo che conta, come quelli nati negli anni 2000 che non ricordano la TV in bianco e nero, è una scheggia di televisione da guardare in un programma, come dire, particolare che ti racconta il passato, ma non hanno non c'è un'esperienza perché a un certo punto arriva internet, hanno un'esperienza delle cose anche molto diverse, anche un uso dei social media molto diverso. Ecco, con questo noi ci dovremmo confrontare. Cioè la generazione Z, per esempio, utilizza, sempre in ottica neoliberale, i social media in maniera strumentale per quello che gli servono. Cioè non è tutto su Instagram, non è tutto, cioè è un po' Instagram, un po' WhatsApp, poi disposto su Telegram, magari Snapchat per altre cose, forse tieni anche Facebook per avere le candeline, i compleanni dove metti la foto, così anche la zia e la mamma possono mettere il like o cose di questo genere, in maniera molto strumentale quello che ti serve in quel momento, al racconto che ti serve in quel momento. Le piattaforme lo sanno, tant'è vero che sono andate verso i contenuti biodegradabili, no? Pensate sia Instagram che Snapchat, che hanno il cui grande successo è nell'avere le stories che ti permettono, cioè qual è l'idea della stories? Che io quando produco un contenuto non è un macigno che definisce per sempre la mia identità, come mettere un contenuto su Facebook, perché uno ti, lo conosci 2 anni dopo e va a vedere le vecchie robe, ma io non sono più quella cosa lì. La stories è quello che sono adesso, al festival dell'Internet Festival di Pisa, dura per oggi, può essere cazzeggio, può essere una roba divertente, può essere una cosa importante, quindi quelle cose posso scegliere alcune e farle diventare pietre miliari che raccontano il mio profilo. Il resto però è roba che deve deperire. Non è la regola, è l'eccezione. Così. Esatto. No, la preservazione della memoria digitale è l'eccezione, e lo faccio anche per fare pubblicità al panel sulla memoria digitale che faremo oggi pomeriggio. Adesso però, se rimangono alcuni minuti per qualche domanda, è il momento di alzare la mano. Dall'internet. Ce n'è una da internet, allora ti do il microfono così la leggi. Anche questa cosa che c'è una domanda da internet ti dovrebbe far pensare, però. Sì, esatto, infatti diciamo siamo proprio in tema. Cristiana Raffa che ti saluta, tra l'altro. Sì, ciao Cristiana, ci vediamo al prossimo festival la settimana prossima. Capito? È tutto così. Cristiana Raffa è una di quelle persone che ho conosciuto in rete, una giornalista, vabbè. Che infatti fa una domanda sul fatto che per chi fa informazione la polarizzazione è una tentazione molto forte perché crea engagement, quindi Facebook in particolare dice ci invita con il suo algoritmo a puntare sulla polarizzazione. Come combattere contro questa tentazione? È interessantissimo perché è la santa, la nuova ed eterna alleanza, la frase che sentite a quest'ora, la domenica in altri posti, tra i vecchi media e i nuovi media. No, è interessante perché la domanda che fa Cristiana Raffa da esperta e da giornalista è: ma probabilmente i social media ti portano a creare dei contenuti o almeno titolo e dimensione visuale, poi il contenuto può essere più articolato, che polarizza, perché così ti prendi del pubblico. Okay? Anche questa è una scelta di diverso tipo, insomma è una scelta etica. Mi viene in mente questa cosa che ha detto Walter Quattrociocchi ieri, che studia gli algoritmi della rete eccetera, che sta collaborando con il Corriere della Sera per produrre contenuti che tendono a non polarizzare. È una scelta etica, cioè l'idea è: noi sappiamo benissimo come polarizzare, un titolo gridato dicendo, prendendo un oggetto, l'immigrazione è un'altra cosa, dicendo bene o male, adesso la dico in maniera edulcorata, mettendo un'immagine neutra o molto caratterizzante, produce probabilmente traffico. Poi bisogna capire se il tuo modello di business coincide con la reputazione che vuoi avere e anche con quello che probabilmente ti porterà nel lungo periodo a avere un modello di business. Io non sono convinto che il modello di business sia attirare traffico da trasformare subito in visualizzazioni che mi portino qualche cosa, o se non ci sia bisogno di costruire legami più intensi. I brand lo fanno, no? C'è un mio amico che si chiama Paolo Iabichino, che è un grande pubblicitario, che dice che i brand devono smetterla di pensare fondamentalmente al posizionamento per prendere posizione, che è quello che molti brand stanno facendo, perché prendere posizione significa che ti perdi del pubblico, ma il pubblico che hai, cioè il consumatore che hai, è un consumatore che crea con te un rapporto che è intenso, emotivo, duraturo, perché condividi dei valori. Poi che anche questa sia una strategia di marketing è un altro tipo di discorso, il neoliberismo ci aiuta sempre, il capitale è sempre più forte di noi, non so come dire, cioè l'ha detto Marx, ma è abbastanza attuale, cioè nel senso che il capitale vincerà sempre da questo punto di vista, perché colonizza spazi che non sono economici ma sono relazionali. Non è un caso che parliamo di capitale sociale, no? Però fondamentalmente il discorso è reputazionale, no? Ci saranno brand, piattaforme, giornali, eccetera, che nel tempo produrranno una loro reputazione rispetto a un pubblico, e questi probabilmente sapranno costruire poi dei modelli anche economici partendo da questo tipo di reputazione, che non è semplicemente la vendita delle copie, ma è iniziative che vengono lanciate, crowdfunding e altri tipi di dimensioni. Questo che siano di destra, di sinistra, pro-immigrazione o contro-immigrazione, no? Ma non nel gioco della polarizzazione in sé, perché non tutte le testate ovviamente hanno la volontà di vivere come polarizzate. 2 minuti per l'ultima domanda, se c'è, dal pubblico o dalla rete. Beh, allora a questo punto io ricordo il libro Fenomenologia dei social network, uscito quest'anno per Guerini Associati, che potete trovare anche lì, grazie a tutti per l'ascolto, per le domande, per l'interesse, e avanti il prossimo. Penso che ci sia un'altra presentazione per voi. Forse credo che questa sia l'ultima pausa, le persone mangiano di solito. Va bene. Grazie, okay, a tutti. Grazie a tutti.